Oh, what's your Twitter name? No, I don't have a Facebook. Hey, did you guys read my blog? Mass media is so manipulative. I totally Instagram this. La conosciuto da poco, spiccava la sua foto dentro il solito social. Era amore al primo effetto l'uomo. Che ti devo dire io, boh? Dio benedica la Polaroid. Tipo così. Colpo di fulmine, boom boom boom. Campa di birra artigianale e drum. Esperto di sushi, pure di un zoom. Non ho capito dal curriculum. Non so cosa fa, ma è un tipo ben visto. È più figo tra gli amici con la bici a scatto fisso. Con quella barba pare più saggio. Ricorda un personaggio, Gesù sei tu? Ma vacci piano, ti siedi sul divano. È un tipo importante, lo sa tutta Milano. È vegano, ok, lo so. Ma anche scrivere su un blog è considerato sport. Scollo otte, magliette rock. Mamma si chiama vintage, non retro. Hello, hello. Mo casino che svela il calzino sul serio. Anche nonna sarebbe fiero. Mamma no, non guardarlo male se lo invita col pranzo di Natale. Ma mi so, oh oh oh oh oh no, innamorata di un hipster, yeah. Mamma perdo, oh oh oh oh no, è tutta colpa di Twitter, yeah. Mettimi un tuo CD jazz di New Orleans. Se il tuo cuore è grande così, pensa negli tipo con dei baffi assurdi però. Hipster chic con la hipster click. Quanto c'hai da fare col tuo iPhone 6? Sei un techno freak e sorridi di rado. Oggi sì perché andiamo ad American Apparel. Oggi è il tuo compleanno. Ti regalo un tatuaggio. Un bel triangolo sopra il braccio messo a cazzo. Che piacere, lei è la tua amica. Le è morto il gatto, è solo lei che se la tira. Regina di tutte le feste più cool. Non sorride più per i troppi chatouche. Ora giuro che la smetto. E fammi un sorriso, mi piaci su Pinterest, Tumblr e Twitter. Mi escludi dai selfie, sei selfish, hipster. Mamma